fai un collare nuovo in metallo, un collare da stringere, diciamo, da qualche parte, con quattro radiali nuovi in alluminio o in acciaio, sarebbe ancora meglio, ma ripeto, con le misure più lunghe, adeguate, e ritorna nuova come prima. Poi il palo, se è intero, va bene, dai. No, il palo già va bene, è abbastanza alto, non c'è problema quello lì. Il problema è i radiali servono, il radiale è il D e la trasmissione, la riflessione è il verticale, quindi è proprio il radiale che serve per andare avanti. Per ricevere riceve abbastanza bene. Sì, sì, beh, tutto è importante, è stata studiata così e... però... diciamo che perdi qualcosa ma tiri avanti lo stesso, non è trascorso bene. Avevi un nominativo prima? Sì, mi chiamo Vittorio. Vittorio? Vittorio Volpe. Ah, Volpe, mi sembra, me lo ricordo, Vittorio Volpe. Sì. Mi ricorda qualcosa, ma ti parlo degli anni 80, 80-90. Anche prima, questo nominativo ce l'ho, da 78. Sì, no, me lo ricordo, perché anch'io tanti anni fa modulavo, poi ho mollato, ho ripreso, insomma, penso come tutti, dai. Appunto, purtroppo, della passione c'è, ogni tanto la gente va, ma non c'è più entusiasmo, perché ce ne sono pochi in questo periodo. Beh, insomma, dai, qualcuno c'è, diciamo che escono un po', insomma, dal letargo ogni tanto, qualcuno c'è però. Aspetta, penso che saremo una quindicina, dai. Io ogni tanto ascolto qua, ma non è che abbiamo molto tempo, purtroppo c'è sempre da fare. Però ogni tanto lo aggancio così. Qualche giorno fa l'ho pensato e mi sono sentito con alcuni amici che conoscevo da tanto tempo. Tutto qua. Capo, chi hai trovato, chi hai rincontrato, diciamo? No, ho messo con Natalino, un altro, insomma. Su questo canale qua, sul 10 e sul 23 qualcuno c'è, non dico sempre, ma c'è qualche buona possibilità di trovare qualcuno. Dai, io ti saluto, ma se ci sei ti do un colpo anche da casa, così vedo come arrivi a casa, dai. Ok, dai, io tanto sono qui nel solo. Dai, ci sentiamo, a dopo, un abbraccio, ciao. Ciao. Ebreco, stavate chiudendo, sta avanzando via. Ciao. Vabbè, sei tu, sì. Sì, ciao Franco, ben sentito, poi ho sentito Vittorio, qualche volta di sfuggita, qualche tempo fa ci siamo sentiti, non so se si ricorda mai, comunque sono Roberto da questa parte. Avanti a Vittorio per i saluti e poi a Franco. Scusa, io vi saluto e riprendo da casa, se coincide, dai. Ria, ciao Franco, ci sentiamo dopo. Io ho appena acceso, nel momento in cui stavate chiudendo voi. Avanti Vittorio, a te il mic. Ok, ciao Roberto. Buona, ben sentito. Buona giornata. E quindi niente, stavo provando, ne ho acceso un altro, gli apparato e questo sta andando benino, diciamo, come radio, non so, dammi qualche cosa pure tu, perché secondo me sto facendo bene. Il problema è l'antenna, No, no, ti ascolto perfettamente. Radio 5, il segnale supera i 9.20, sei quasi 9.25. Sì, no, vabbè, il numerale riesce bene, però rispetto a questa antenna che non mi piace, però l'importante è ascoltarti, dai, sto qua amico. Assolutamente. Che antenna hai, che cosa stai utilizzando? Ah, guarda, è un'antenna vecchia, sto sempre per il manco, va. Mi mancano due radiali, sta andando avanti così. Non so neanche dove mai stanno andando avanti. Stazionarie non ne ho quasi nulla, non so dove stanno andando avanti. Da parte mia, non so in che zona sei, non mi ricordo, ma l'avevi detto tempo fa, probabilmente siamo vicini. Comunque io ti ascolto perfettamente, la radio è 5 pulita. Che radio e che microfono, se lo vuoi dire? No, il microfono è normalissimo, la radio è un Vesta, un Vesta vecchio, anche quello vicino, però insomma non ho un impianto sofisticatissimo, è un impianto normale, ho anche altre radio, però No, la Lafayette ce l'ho anche io, il Texas ce l'ho anche io, l'ho acceso forse una volta, due volte, l'avevo preso in un pacchetto di radio, altre cose, aveva dato anche questo, invece ma già vanno bene, sono apparati che hanno fatto la storia della radio, quello nero, tutto nero stai dicendo? Tutto nero, Sì, è uguale al mio, ce l'ho uguale, ne ho diversi, però sinceramente i veicolari a me non è che piacciono più di tanto, preferisco quelli base, dai, possibilmente alimentati a 220, oppure quelli di altri generi di radio, che a 12 volte però sono belli grandi, con frequenzimetro, un bello strumento, i piccoletti a me non è che mi piacciono, ne ho diversi, c'è anche l'Alan 48, un altro Alan piccolino che era sul camper, però sono, vanno bene in macchina, tenerli in casa, io dico se c'è lo spazio è sempre meglio avere una radio bella grande, con lo strumentino, lo Smither bello visibile, con tutte le funzioni, con tutti i tasti, in modo che vengano bene anche a utilizzarli, non troppo raggruppati. Certo, avevo un apparato, no, ma già ne ho più di più, ma non mi sbaglio a chiedere. Poi sulla 220, certo, già ne metto sulla 220, già dovrebbe essere già un po' più sofisticato, diciamo, ma meglio, l'ho avuto anch'io quello di piantare fra di 440, perché, però l'avevo prestato a uno, poi se ne è padronito e non l'ha più restituito, purtroppo succedono anche queste cose. Vabbè, purtroppo. Grazie a te, no, non parlo tanto di quel tipo di nome che ha detto tu di apparato, parlo tipo Saturn Echo, io ho il Pace, Saturn e Base, Royce, un paio di Intech, un Multicom, c'è un altro, diciamo il migliore di tutti è il Multicom, di tutti gli apparati, quelli omologati che ho io, il più bello di tutti, c'è un'ottima ricezione, silenzioso, spettacolare, l'unico problema magari in trasmissione devi metterci un bel microfono con una bella amplificazione, perché in trasmissione non è un granché, è molto meglio il Pace, un vecchio apparato anni 70, però spinge anche una bomba quello lì, magari in ricezione prende un bel di mondezza, perché satura subito, quando c'è qualcuno vicino forte ti va in saturazione e devi chiudere, mentre quell'Intech che sembra una crepe, c'ha tutto, non gli manca niente, è perfetto, è eccezionale e basta. Di nuovo a te il mic, Vittorio. L'Intech è un signor apparato, anche questi studenti che sono alimentati sempre con la 12V. Ah, l'alimentazione credo che da più tempo lo trova, ci sono apparati che vengono alimentati anche a 12 che hanno una certa professionalità, però siamo sempre lì, siamo sempre a livelli di 27, se hai un apparato buono che va a 4 frequenze è chiaro che è migliore, questo è chiaro. Però ad esempio a me piaciuta sempre la modulazione vocale, una modulazione telefonica, quando mi sente parlando al telefono, queste ci sono alcuni apparati che hanno questa amplificazione, purtroppo che ti dà un po' di saturazione, però poi ti piace questo tipo di fibrica, a me non piace, a me piace questa che sto usando io adesso, non so, ma mi sembra la telefonica è quella migliore. Assolutamente d'accordo, io forse sarò pure troppo fiscale molte volte, troppo fanatico, io sono contrario a tutti gli effetti ecco, riverberi, doppio modulatore, triplo modulatore, io dico la voce deve essere una telefonata, il più possibile chiara, senza essere fastidiosa, perché se è troppo amplificata poi ti amplifica anche i rumori esterni, ti dà fastidio, uno è alto, l'altro è basso, per cui devi abbassare il volume quando c'è quello lì e quando c'è l'altro lo devi alzare, più o meno mi piace come hai detto tu, quel sistema lì, e cerco anche nei miei limiti di possibilità di uscire il meglio possibile, poi naturalmente qualcuno ha altri tipi di gusti, però come hai detto tu la radio deve essere chiara, è inutile avere amplificazioni sature che non si capisce niente, che devi chiedere la ripetizione del messaggio perché non l'hai capito, e succede più di una volta, soprattutto poi c'è gente fissata con l'eco qua in città, e lo posso capire, un camionista ha problemi di farsi sentire in zone disturbate, ci sono colline eccetera, per cui l'eco può essere utile quando lo utilizzi soprattutto al mezzo per lavoro, per farti compagnia, ma qua in città secondo me è una cosa, ti stai sporcando la modulazione ed è inutile. Esatto, la modulazione deve essere bella chiara, poi ad esempio questo che sto usando io qua adesso ho agganciato sempre questo apparato stesso, c'è un eco qua, c'è un reverbero, un eco e un effetto flanger. Non se vuoi te lo posso far sentire anche qui regolando, guarda adesso c'è, guarda una femmina, cosa fa, cosa fa di voi? Guarda, sorella, un altro pochettino. Osserva, non so se non è stato portato qualche cosa. Guarda, l'eco devo dire è molto chiaro, la ripetizione è molto, molto fedele, perché molte volte questi eco sono sparati, nel senso si amplificano la voce e poi il primo pezzettino dell'eco è forte e poi tutti gli altri la voce non si capisce se taglia le parole, e questo la modulazione è chiara, nel senso anche se c'è la ripetizione è la stessa intensità di come non ci fosse l'eco. Ma allora guarda, però dovresti abbassare la velocità, il delay è troppo rapida la ripetizione, un po' più lento mettilo. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso non ce n'è. Vediamo un po'. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Sì, adesso va bene, c'è un leggero effetto camera pure. E quello è il flanger. Così ce l'hai tolto, è bello, diciamo, non è fastidioso. Ecco, però a me non piace adesso. Ho voluto fare sentire così. Però è una, questo è un apparato a parte che è aggiunto al sensor, capito? Però questa è una camera eco particolare che va fino a 2 secondi di ritardo. Scusa un attimino, vi trovo al telefono, un attimino, permetti. Vai. Sono rientrato, eccomi. Ok, Roberto. Quell'eco probabilmente è adatto per fare discoteca, diciamo, cose del genere, visto che è così fedele, molte volte lo usavano i DJ, quando facevano certi mixaggi e cose del genere, che ci parlavano sopra, usavano quello, perché è molto, così, un eco digitale o che cosa? Sì, è digitale, si chiama Digital Echo 128K. Che marca è? La marca è una marca, devo dire, che non c'è, comunque della Roland. Ah, cacchio, Roland già è Roland, quindi stiamo già parlando di cose discrete, non stiamo parlando di giocattolini di ZG o similari. Sì, lo uso quando sono, lo so che sono agganciato, però ho dovuto fare un collegamento un po' particolare, assolutamente, infatti ci stavo pensando, ho detto questo non mi sembra roba giocattolo, mi sembra qualcosa di apparecchio per uso professionale, molte volte si utilizzano sia per la voce che anche per strumenti, per chitarre o cosa, bassi, per dare effetti di cosa, suoni qualche strumento tu? Sì, sono la chitarra, anche la tastiera, no, ma non è quello il problema, lo uso quando ci sono sono in piazza, devi avere un effetto che prolunga, capito? E un reverbero anche, bello. E quindi questo serve per questo motivo qua. Sì, sì, corregge anche quando secondo l'ambiente riesci a gestire tutta la situazione, dai. Ok, cosa fai? Che genere fai? Sassanese, italiano o internazionale? Vabbè. Sì, un attimo, ma fa. Fallo entrare, non c'è problema. Vai, fra. No, solo per dare il controllo a Volpe. Vai, adesso ci sei, 1, 2, 3, prova. Praticamente mi si è crollato, perché praticamente l'antenna in casa ce l'ho a parte opposta dove ero prima, quindi sono coperto verso la tua zona, quindi qui mi arrivi bassissimo. Ti ascoltavo 9 dalla macchina, qua un segnale di 2 addirittura. Perché siamo distanti, però. Non lo so, io come ti arrivo lì? Vabbè, sono un po' carico, Beh, come prima, uguale. Vedi un po' adesso? Adesso è con 3 watt e mezzo, 4, dai. No, sei sceso a 9, prima era 9,20. Ok, dai. Per quella parte sono negativo, andava meglio dalla macchina. Avanti, vabbè, io vi lascio che vado a farmi una bella doccia. Ok, ciao. Sì, radio ultima, come al solito, Franco, segnale normale, quasi 9,20, attaccato quasi 9,30, 10 punti hai guadagnato, ottimo, tutto per la truppa, come dice qualcuno. Mo tutto, vai, se ci sei dopo, se coincide ci sentiamo. Vai, Vittorio, a te. Ciao, buona luce, ci sentiamo dopo, insomma. Io mi trattengo ancora un po', dai, non c'è problema. Quindi mi sta facendo, vabbè, non mi ricordo cosa l'ultimo passaggio. La domanda mia è, tu hai detto sei un musicista, suoni italiano, internazionale o come si chiama, folcloristico, parlo sassarese? No, folcloristico no, non mi piace, devo dire la verità, no, roba internazionale, sono un amante dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Creedence, c'è roba di gruppi musicali affermati, professionisti, perché di professionisti si parla, dei Genesi, degli U2, queste sono tutte musicali che io suono nelle due cose che suono. Sì, sì, molti di quelli che hanno nominato sono tra i miei preferiti in assoluto. Dai, i Genesi hanno fatto la storia della musica, i Beatles non è che mi piacciono più di tanto, però devo dire che anche loro hanno fatto la storia, per chi piace quel genere di musica. Non è il mio gusto preferito, però i Genesi, stiamo parlando già di cose, di musicisti a livello mondiale. Beh, i Genesi certo hanno fatto anche loro una buona storia, però i Beatles sono stati dei protagonisti prima dei Genesi, perché i Genesi sono arrivati dopo. I Beatles hanno inventato un po' tutto quello che è il rock, eccetera, eccetera. Perché dopo Elvis sono arrivati i Beatles e hanno schiacciato un po' tutti. Loro è che hanno insidiato una musica universale. Se tu, vabbè, non so, di che età sei, ma credo che... Sì, no, no, assolutamente d'accordo con te, anche loro sono di quelli 10-15 gruppi o musicisti che hanno fatto la storia della musica, però diversa, la vedo un po' più commerciale riferita ai Genesis. I Genesis sono una musica rock un pochettino più d'avanguardia, diciamo, più di, non dico di qualità, perché gusti sono gusti, poi magari a uno gli piace ascoltare, posso dire, Vasco Rossi, e per lui il numero uno è Vasco Rossi, così è la musica, è l'altro, ognuno ha i suoi gusti. Però io devo dire, a livello di gusti miei musicali, Genesis preferisco 10.000 volte ai Beatles. I Beatles probabilmente sono più conosciuti dal mondo, anzi sicuramente, perché Genesis, solo chi ascolta rock magari li può conoscere, se lo dice a un giovane magari non sa neanche chi siano i Genesis, forse qualcuno un po' grandicello riesce a ricordarsi, ma uno dei giovani di adesso non sa neanche chi siano, magari conoscono a Peter Gabriel o a Phil Collins, li conoscono separatamente. Se li parli, dimmi una canzone dei Genesis, un brano, non lo sanno. Mentre dei Beatles chiunque, anche un ragazzino, conosce qualunque canzone. Eh beh, certo, no, vabbè, i Genesi a me sono sempre piaciuti, tutti hanno fatto, hanno inciso un album, ma forse tu magari l'hai mai sentito, l'album si chiama Selling the Ballon de Pound, dove c'è Cindy Consirsi, che è un'opera d'arte. Se tu ascolti quel pezzo, non so se la conosci. Guarda, adesso il titolo non me lo ricordo, però ne ho sentito diversi di brani dei Beatles, non è esattamente il gruppo mio preferito, però devo dire che mi tolgo il cappello quando li ascolto, hanno fatto dei pezzi eccellenti, sia di qualità, diciamo, di qualità, di difficoltà, eccetera, però sono eccellenti, cioè, hanno dei musicisti proprio a livello mondiale, hanno avuto dei musicisti, per cui non posso dire niente. I miei preferiti, vabbè, il gruppo preferito mio sono sempre i Police, e poi dai Atleti, eccetera, eccetera. Però i Genesis hanno dei brani che posso dire, cavolo, quando senti quella musica sono delle melodie, cioè dei suoni, delle sonorità uniche, solo loro riuscivano a farle quelle cose. Ecco, avanti. Buonasera, Gianni il Profeta da questa parte. Un controllo lo chiedo prima a Roberto. Sto utilizzando un Galaxy Uranus, con un microfono normale, volevo sapere com'era. Bomboletta qua, 9+25, dal solito segnale, ha guadagnato 5 punti, radio chiara e forte, sei in compagnia mia e dall'altra parte c'è Vittorio. Chiediamo a Vittorio, anche se lui è in una situazione un po' precaria, come andate in avanti Vittorio per Gianni il Profeta. Ciao Gianni, ben sentito. No, uguale, 9+20 segnale da me. Io purtroppo ho l'antenna che non funziona molto bene, però ancora sto andando. Chi se va, quando cadrà, definitivamente vuol dire che lo guarda. Comunque è un bel segnale, dai. Bene, Meda, qua lo smitter è un po' tirchio, sicuramente vuole sistemato, dai, vuole fatto un minimo di regolazione, perché rispetto all'altro è nettamente molto più tirchio. Vabbè, Roberto, come al solito, uguale. Niente, no, siccome Eugenio mi ha dato la radio ieri, la sto testando, adesso c'ho un microfono normale, sono riuscito a dargli questo, ma niente, dai, volevo giusto sapere un tuo parere. No, da parte mia, radio ottima, niente da dire, nessun disturbo sotto, nel sottofondo, chiara e pulita, giusta amplificazione, va benissimo. Questo Uranus ce l'aveva, come si chiama, adesso mi ricordo, un CB che non è entrato da tanti anni, ce l'aveva uno lui. Qual è? Quello nero l'apparato, come, di che colore? Positivo, è nero. Il problema è che ci sono alcune funzioni che devo capire, senza manuale è un problema, capito? Sì, ho fatto le basi, mi ricordo, diciamo, della tipologia del Saturn, ecco, confermi. Più o meno la stessa parrocchia, dai. Sì, no, vabbè, ma fantastico, se poi vuoi qualche informazione, magari, per quel piccolo di esperienza che possono avere, magari ti possono anche aiutare, o se no chiediamo anche a Vittorio, che magari lui è più pratico di me, visto che è in frequenza da molto, molto prima di me. Dai, Vittorio. Sì, no, beh, no, beh, anche se sono molto, sono un grande esperto, dove le cose, sicuramente. No, gli apparati, quindi, sono un apparato abbastanza buono, non c'è problema. Che quando si sta tanto tempo senza usarli, poi un po' cedono, è chiaro, poi tutto, la componentistica, quando tu hai un apparato che lo tieni fermo 20 anni, 25, 30 anni, poi non ha più quelle caratteristiche uguali a quando era giovane. Purtroppo è come l'uomo, sono invecchi, quando invecchi non hai più quei riflessi, e così sono gli appareti. Quando tu non lo usi spesso, tutta la componentistica perde, i componenti hanno un piegamento strutturale, purtroppo per la sensazione di avere quella continua alimentazione. E questo sì, confermo, soprattutto quando sali di categoria di apparati, ci sono degli apparati che ne risentono tantissimo, la componentistica, soprattutto i condensatori che sono degli accumulatori, diciamo, in miniatura, per cui se non gli dai le tensioni, le alimentazioni giuste e non le ricarichi, alla fine il componente perde di prestazioni, per cui anche dati quella capacità, quel valore stabilito, magari te ne dai in più o in meno e ti vai a intilti l'apparato. Ok, vediamo se Gianni Obrofetta c'è ancora, avanti Gianni. Eia. No, vabbè, l'apparato funziona benissimo, il problema è che siccome è un baracchino a sintonia continua e ha delle funzioni particolari, per cui si potrebbero memorizzare dei canali a piacimento, è proprio quella parte lì che ho difficoltà. Ho recuperato in internet un manuale, però è in tedesco ed è un travaglio. Non so il tedesco, con l'inglese ti arrangi, con il tedesco è un po' più complicato. Ok, cinese mi sto un po' abituando, giapponese lo so parlare perfettamente, domani. Avanti Vittorio. Mi avete fatto ridere, no vabbè, comunque no, adesso c'è sempre un modo per portare in lista, che si vede Google e ti dà il cambio, non c'è problema, se lo traduce subito, no? Però si vede la pazienza frase per frase e poi almeno così. Non è che è una cosa difficile, non è che volete sapere parlare, purtroppo un computer non si fa tutto. Sì, siamo agevolati, internet ci ha dato una grossa mano in tutti i settori, quando c'è qualche dubbio prendi, attacchi, scrivi e ti risponde il signor Google. Volevo dire, si è sentito Gianfranco, l'avete sentito qualcuno? No, io ho acceso poco fa, ho beccato Gianni, il doppio room, Claudio e Franco California che mi sta splatterando sicuramente in un canale qua vicino. Addirittura? L'ho sentito, adesso poco fa, un paio di passaggi fa l'ho sentito sotto. Eppure dovrebbe essere, tu non sei da una stazione, lui è tutto dall'altra parte, cacchio. Boh, magari questo apparecchio che è un po' più ricettivo dell'altro, dai. Con l'eccezione un attimino un po' più aperta, dai. Vittorio lo sento molto, con la voce molto molto lontana dal microfono, non so se ha un problema al microfono, ma ho difficoltà veramente a capirlo, la radio è veramente bassa. Bassa? No, dipende, se mi avvicino molto magari va in distorsione, non mi piace, la voce va poi a distorsione, adesso come mi senti? Adesso va un po' meglio, dai, adesso ti capisco. Purtroppo gli apparecchi, la distanza che abbiamo anche è notevole, se non so che zona sei, ma saremo almeno una decina di chilometri di distanza. Guarda, coordinate nei pressi della stazione ferroviaria. Allora in linea d'aria saremo 100 km. Dai, non è così poi tanto lontano, dai. Comunque, dai, un altro paio di passaggi e poi vi lascio. Avanti, vabbè. Ehi, Vittorio, tu solo vuoi dire in che zona sei, non dico la via, ma la zona. La zona, l'avevo detto prima, zona, allora, tratto comunale, se l'hai presente, Monte Oro, sulla parte sinistra, verso... per andare la strada lì che per andare a Udine. Sì, cavolo, stai andando alla grande, stai radiando bene, con la potenza dell'apparato stai uscendo. Questa è la potenza dell'apparato, normale. Allora guarda, no, zona grande, no, io pensavo che fosse zona, guardate, posso dire, zona Puglia, Napoli, quelle zone lì, sta arrivando alla grande, 6,920 e lo superi pure quando con la modulazione, era grandissima. Mentre quando ti arriva a te, coso, Gianni, quanto ti arriva Vittorio dalle tue parti? Sono detto, lo smettere il tirchio, qua mi segna 9, probabilmente magari qualcosina di più. Ci devo mettere mano, dai. E un rapporto con me, vabbè, io magari ne sanno qualcuno in più. Rispetto a me, io quanto arrivo dalle tue parti? Appena più avanti del 9, Roberto. Te l'ho detto, lo strumento è proprio, c'ha le braccine. Ah, ok. Mentre Vittorio, io dalle tue parti quanto arrivo? Da me c'è 9,20. Più o meno lo stesso segnale abbiamo, dai. Quindi sei abbastanza vicino a Gianfranco, lo conosci a Gianfranco, tu, Vito? Gianfranco è a 200 metri da me. Quindi arrivi alla grande, ti sfascia i baracchini. Ti sfasciamo i baracchini, è andato via già. Forse gli ha scusato il telefono. No, non sono qua. Ah, ok. Dai ragazzi, io vi devo salutare, perché vado a fare delle commissioni. No, vado a prendere una boccata d'aria. Dai, un saluto a Vittorio, a te Roberto e a tutti gli ascoltatori. Dai, ci risentiamo prossimamente. Ok, buona serata e buon proseguimento. Ok, quando vuoi, già sei ben accetto, non ci sono problemi. Buon tutto, buon proseguo di serata. Vai Vittorio. Ok, dai, saluto, è tante cose belle. Vediamo su 10 qualcuno vuole entrare, lasciamo un secondino di bianco, se no riprendi tu Vittorio. Avanti su 10, chi c'è? Ciao a tutti, noi a controllo Roberto. Allora, di radio di chi sei prima di tutto? Non ho capito, avanti. Tonino, ho messo l'antenna come io comanda, ho cambiato l'antenna pure. Ah, Tonino, non ti avevo riconosciuto, ben sentito. C'è compagnia mia di Vittorio, doppio, il profeta è andato via, se il segnale è quasi 9,20 con i picchi arrivi, radio 5 è chiara. Ok. Salto nel caso amico, ho capito. Vittorio, te lo rilancio, avanti Vittorio per Tonino. Ciao Tonino, ben sentito. Ti ascolto molto basso comunque come radio, molto basso. Radio 2, sai, la segnale 7 più o meno, dai. Più o meno così. Un po' bassino. Ciao Vittorio, che zona sei? Zona Prato Comunale. Io sono in campagna, sono a San Camillo. Sì, a San Camillo, una parola, siamo di più di 10 km di distanza. Comunque mi ripeto bene per Sassari, dai, avanti Roberto. No, io ti ascolto fortissimo, quasi, ripeto, con i picchi quasi a 9,20 e la radio 5 è perfetta. E tu dammi un rapporto, se me lo puoi dare. Tu sei sul 3, di 9,30, la radio 5 è perfetta. Ma quindi va bene il giocattolo, dai, ok. Ripeti tu Vittorio. Ma sì, l'ho ascolto fatto, non è il problema però, siamo sempre lì, perché la mia antenna è vecchia e decrepita, purtroppo, e quindi devo accontentarmi di come sono, lo devo fare. A fianco. Io sono a vista dalla zona tua, Monteoro ce l'ho di fronte, lo vedo proprio perfetto, non ho nessun ostacolo, per cui anche se metti mezzo watt ti ascolto sempre forte e chiaro. Vediamo un po' se c'è qualche donato che vuole entrare, se no riprende Tonino. Avanti su 10 che vuole entrare. Nulla, vai Tonino. VK. Qualche minuto, mi sento che devo cambiare il microfono come stava con l'altro, se mi sente meglio Vittorio. Sì, siamo qua, dai. Non ci ho sentito Claudio, l'hai sentito tu per caso Claudio Vittorio? No, negativo, no, lo faccio molto. L'ho tolto così quando l'accento rimane acceso, sto facendo delle cose, no, non lo vedo molto da voce, sarò almeno 20 giorni. Diciamo vabbè, sono impegnato la sera, perché c'è la sera, la giornata, perché c'è dei lavori con i muratori, però quasi tutte le sere lo sento, almeno quando entro io entro dopo le 6:30, quell'ora, le 7, come finisco il lavoro attacco una mezz'oretta, un'ora, dipende dalla voglia che c'è, dalla gente che c'è. Oggi è un po' poverella la frequenza, non si sente neanche Giulio, che Giulio c'è quasi sempre. Gianfranco lo stesso, ultimamente lo sentivo spesso, però c'è un paio di giorni che non lo sento. Di nuovo a te il mic Vittorio. Grazie, sì, anch'io sentivo Giulio qualche volta, perché molte volte rimango in ascolto, non entro perché sto facendo delle cose, capito? Distanzature, faccio un po' di elettronica, ma no, attenzione, non faccio elettronica, riparazione, non faccio calci, perché quando si va a suonare in un posto, purtroppo ci sono i capponi che ti schiacciano il cavo, tirano il microfono e quindi nel non è agganciato, però gli operati, i tre fili che sono agganciati dentro vanno a unirsi e va in corso, e quindi sta sempre il caso, purtroppo è così. Non so, purtroppo quando ci sono quelle esibizioni all'esterno qualcuno tira, finché non si rompono, si rompono il cavo va bene, ma quando ti strappano l'attacco a pannello, la Canon, ti sfasciano anche il mixer secondo cosa fanno. Com'è adesso la radio? Prova a parlare. 1, 2, 3, prova di modulazione. Buona, però l'altra è leggermente più fedele, questa è un pochettino più scattolosa, dai, più citofonica, comunque anche questa è 5. Chiediamo a Vittorio se ti ascolta meglio, lui è forse più lontano. No, devo dire che la radio questa è più, ha una modulazione raucellinosa, vale a dire che va un po' a distorgere, l'altra era molto migliore, più chiara. Innesca. Moda, non ho fatti attacchi buoni perché innesca. Si mette mai anche normale. Che cos'è? Che radio è Tony? Autocostruito. Come la radio autocostruita? Ah, la radio, il baracchino dicevi. Il baracchino. Metti al microfono, si sta girando. Un Midland, l'Alan 68 forse. Infatti, oggi tu che sto costruendo la radio Torino, te ne porto io a fare allora lavoro. Magari si fa, raga. No, no, io intendevo il tuo microfono. No, no, Tony, non è un granché, si capisce, però per di tanto poi ha avuto anche qualche innesco, era meglio l'altra, sinceramente. Chiamo a te Vittorio. Sì, è un microfono, ci sono i microfoni che sono buoni, quello che vuoi, però a secondo gli apparati hanno una variazione, non ospitano, non tutti i microfoni ospitano gli apparati. Quindi c'è una, vanno a distorgere, non combinano, capito? Quindi bisogna mettere sempre l'originale, oppure provarne alcuno che va bene, va bene. Questo è l'originale praticamente. Ecco, questo va meglio. Storia, che antenna sta utilizzando? Mantova 5. Ma sempre dove era prima o hai cambiato posizione? Ho cambiato posizione, stavo più alto. Mi sono fatto il matto per stasera. Ho iniziato alle 3 e ho finito verso le 5. Ho girato e tutto fatto. Stavo alto 7 metri, ho fatto bene il basamento, sono tutta la settimana per 50. Un basamento 80 per 80, profondo 50, 2 vitale e mezzo di calcio giusto, ferro e via dicendo. Ho trovato il palo dentro e un amore. E poi ci metto tutto presso il palo più la testa. Però Tony, ho visto un peggioramento adesso, sia di segnale che di radio. Addirittura. Io vedo quanto il segnale io sono qua. Come in uscita. Non hai toccato niente, si è accordato, non è mai, c'è un accordatore, magari per sbaglio hai toccato qualcosa. Nulla, no, niente, paracchina per poco. Ma sento un po' cupo adesso, poco fa, la prima volta che sei entrato ti sentivo molto meglio, strano. O forse c'era più distante il microfono dalla bocca, cos'è un palmare il microfono? Ecco, adesso com'è? 1, 2, 3. Adesso sei tornato tu, cosa hai toccato? E c'era Mike che hai quasi a metà. Allora è quella la musica, no, adesso va molto meglio. Comunque, con le radio ottima, sì. No, ti ascolto bene, niente da dire, è pulita, non ha imperfezioni, non ti tiri niente di zotteria appresso. L'altra invece era un pochettino citofonica, un po' cupa, non cupa, diciamo, mancavano un po' di bassi, c'erano un sacco di medi e di acuti. E poi, come hai sollevato, hai toccato, hai anche innescato, per cui probabilmente non si addice a questo tipo di radio. Di nuovo a te Vittorio. No, vabbè, ha migliorato, certo, però la microfonia vocale rimane un pochettino amplificata e quindi tende un pochettino a distorgere. Io il microfono credo di sapere qualche cosa, perché faccio un mestiere, non è un mestiere, io lo faccio per hobby e so cosa significa un microfono quando si parla, se è chiaro, sa problemi da fare uso, tutto valvolare. Importante che mi ascoltano, dai. Andiamo bene, niente, mi sto rifacendo tutto, avevo tutto dato via, adesso così piano piano ci riattrezziamo ancora una volta, avanti da me. Sì, sì, piano piano, dai, intanto ti ripeto, si sta un po' ripopolando, anche se ne stanno entrando qualcuno di nuovo, tipo Vittorio, che era da un po' che non lo sentivo, da forse qualche anno, non lo so, anche io non è che ero molto assiduo ultimamente, sì, ma qualche tempo fa sono mancato per tanto tempo. Qualcuno si è allontanato di quelli che erano sempre presenti, ho notato, però più o meno quel gruppetto di persone, 5, 6, 4, 3, 7, 8, più o meno li senti alternativamente, dai. Io non lo so perché, niente, è stato oggi l'antenna, ascoltavo addirittura con un antennino del PMR, fate conto. È un po' pazzini, ascoltava però, li ascoltava lo stesso, ma non entravo perché si appoggiava i finali, tutta un'antenna diversa dalla 27, capito? E niente, mi sono deciso tutta la settimana a fare questo printo, grazie a Dio, e quindi, fino a che ce l'ho fatto, ma ci ho tirato un quanto, e poi leggermente il cavolo, passandolo dalla passata, poi lo metterò meglio, tutto qua. E la tuffetta ce l'hai ancora? No, assolutamente, mi basta con il dicelatore per salvarmi. Ah, così, perché anche tu qualche grillo da El Nido non l'hai buttato tempo fa. Oh, addirittura. Eia. Ok, lasciamo un secondino di bianco, se vuole entrare qualcuno. Avanti, chi vuole entrare, se no riprende Vittorio. Vai, Vittorio. Sì, no, vabbè. Sono assente stasera. Un giorno fa l'ho acceso e c'era una nota. Sì, anche io lo vedo come valvola di sfogo, io faccio un lavoro, probabilmente lo sai, probabilmente ci conosciamo anche, almeno sono sicuro che ci conosciamo Vittorio, perché probabilmente sei capitato anche dalle mie zone, io sono capitato dalle, se sto conoscendo a memoria la stessa persona che aveva un'attività inerente al mio lavoro, mi confermi? Non so, accenna qualcosa. Tu eri quello, almeno se non sbaglio persona, vedevi dei ricambi? Cappa. E io li acquistavo, parliamo da piccolino, poi forse ci siamo visti di recente, tempo fa, dai, perché qualche ricambio d'epoca, qualcosa ci avevi. Probabile, ma non molto tempo fa però, non più di 7 anni fa. Ehi, non posso dire il mio cognome, però se hai capito di cosa mi occupo, sempre campo di riparazioni, e da piccolino soprattutto siamo venuti tante volte a acquistare da te. Ho capito. Vabbè, campi di vetture vecchie comunque. Non ho capito. Ricambi di vetture vecchie. No, vecchie e nuove. Io sto parlando vecchie, è capitato tempo fa, mi sembra che forse c'ho anche il bigliettino da visita, mi ha detto se serve qualcosa perché c'avevi qualcosa da parte, non lo so, mi conservato, avevo chiesto dei ricambi, mi ha detto guarda se ti serve qualcosa, perché poi l'ha capitato un amico mio, che forse lo conosci, adesso non posso dire il nome, lo stesso, e lui mi ha detto guarda che c'ha delle cose, eccetera, e ci siamo sentiti per telefono, una serratura di un GTA Ferrari, non una serratura, maniglia, un altro cristallo di un GT1 Alfa Romeo tempo fa, confermi? Allora. E allora se fai un giro di conti riuscirai a capire con chi stai parlando. Sì, però tieni presente che queste richieste di quelle vetture lì, di quei cassi, quella genere lì, abbiamo avuto diverse, quindi diverse persone, perciò adesso il tuo parlato non è che lo possa riconoscere. Dana, non posso dire il cognome, però la mia officina, non dico a me personalmente, ma di cosa, ma il mio povero padre che è morto a Puglia, che l'hai conosciuto, parliamo di la più anziana di tutti, di età come carrozzeria. Dai. Ma però non mi puoi dire neanche la zona alta di su, di Sassari, zona alta. Ma Carbonazzi? Diciamo più o meno lì, dai. È proprio dove che abbia conosciuto il tuo padre, senz'altro. Non so di che epoca, di che età forte. Mio padre purtroppo deceduto all'ottobre, il 4 di ottobre, ma l'hai conosciuto perché ero piccolino e venivo giù da voi a comprare, andavo lì, poi ha iniziato la UPAS, diciamo, che noi facciamo parte come soci di lì, e poi siamo andati a comprare da altre parti, ci siamo un po' allontanati, dai, devo dire. Sì, sì, beh, poi è nata la UPAS, noi abbiamo chiuso, eravamo troppo anziani. In che classe era tuo padre? Mio padre era il 33. E allora lo conosciuto, sì, pensato. Ma eravate fratelli, la ditta erano dei fratelli con la Binizza, no dai? Noi eravamo tre fratelli, sì. E allora già stiamo parlando della stessa persona, dai. E poi c'è un tuo omonimo, però si occupa di un'altra cosa. No, no, mio amore, non si occupa di un'altra cosa. Eravamo tre fratelli, abbiamo chiuso l'attività lì, e un mio fratello ha messo il figlio lì, ha aperto nuovamente, noi abbiamo chiuso, abbiamo buttato via tutto il materiale. Centinaia di migliaia di euro, buttate via, rotta madre, abbiamo chiuso, siamo diventati anziani, poi non lo vogliamo più sapere. Però adesso c'è un punto di visita di un ragazzo, di questo mio fratello, che non so cosa stia facendo, perché non sono più interessato. Sì, ho capito, tu sei una... dove ci sono i gommisti vicino, dai, stiamo parlando della stessa persona, adesso c'è un'altra, uno più giovane di lì, se lo vuoi dire, di che anno sei tu? Beh, io ho più di 70 anni, per cui ero piccolino, piccoletto, quando venivo da te, mi ricordo bene, avevate poi la vetrinetta, un coso, un espositore, c'erano gli adesivi, un giorno me ne avevi regalato uno, ero piccolino, piccolino, te, non me lo stavo guardando, andate, prendilo. No, vabbè, noi avevamo tre vetrine prima, perché avevamo il magazzino è il nostro, adesso io lo sto affittando. Scusa Vito, comunque. C'è Tony, scusa per il monopolio. Stiamo parlando, ero piccolino piccolino io, stiamo parlando 50 anni fa, se non 50, 48 anni, io ne ho 58, fatelo conto, ci avrò avuto 8-10 anni. Sì, sì, sì, perché erano altri tempi, sta passando forse il microfono qua, poi si avrebbe un momento un po', 1, 2, 3, prova, sì, adesso va bene. Sì, sono tu, che hai quell'età lì, beh io ne ho di più, ne ho 15 anni. Ma il problema è che allora si lavorava, si era tutto lì, era tutto genuino, la vita, però abbiamo lasciato in parcheggio a Tony, a te Tony? Chiappa, io stavo ascoltando, ah Vito, tu ero molto pronto lì? Guarda, io ho iniziato a modulare nel 1968 come apparato mio, eccetera, però ho modulato anche da prima, dal 66, che c'aveva un amico che aveva una bianchina, auto bianchi, sì, allora era auto bianchi, la 500, era una 500 bianchina, e aveva la radio, lì noi eravamo molto amici, mi faceva modulare, eccetera, eccetera. Poi nel 68 ho comprato l'apparato, era un Tokai valvolare, di cui me lo rubarono nella 127, no, nella 600, la 7600, avevo preso una 600, e me l'avevano rubato, e purtroppo me lo sono dovuto ricomprare, tutta una storia, e poi sono stato una decina d'anni senza modulare, fino all'80, poi nell'80 ho ripreso, ma il lavoro non mi consentiva di, purtroppo di modulare, quindi ho mollato ancora, e quindi praticamente modulavo a farfalla. Quindi più o meno c'è dei tempi di Macallè, Ostro, Ripino, Antonio San Nicola, lui che dice? Guarda, nel periodo della Puglia c'era Vela 1, Vela 2, poi c'era Vela 3, Porta Torre, cioè vecchi modulanti, diciamo, dai. Vela 3 io conoscevo Giuseppe Pino, che era buon anime, non c'è più. Infatti, io ho saputo questo. Ok. Non ci dimentichiamo di Giulio, Gian Maria, quelli anziani sono tutti loro, i vecchi CB. Mario Mare non c'è più il banale, ma... Mario Mare, poi c'era Coso, Monteoro, c'era Damiano. E poi Eremita del lago di Barat, lo copiavi, sì? No, io avevo una buona antenna, però quella zona rimaneva per me e allora abitavo in via Milano. Negativa, perché via Napoli era, c'erano questi palazzi, erano molto più alti del mio, io abitavo sotto il negozio, era più basso con me, ecco, e non riuscivo mai a arrivare in quella zona. Al Gero era bellissimo, però lì no. E per trascurvia, ti dice qualcosa? No, neanche. Dice qualche cosa, invece, non la cosa, non si chiama Salvador, ma un certo Franco, Gianfranco. Trascurvia era vecchio comunque. Manziana, formodolava anche con una rosetta, ronata, altalena. Penso che non ci sarà più neanche altra idea perché era già vecchio, Che io state raccontando i vecchi tempi, no, io sono molto più recente, anche se devo dire da bambino piccolo, da 13-14 anni ero fissato con i walkie talkie, coso, e dicevo sempre a mio padre comprami il baracchino, perché c'erano delle persone che conoscevo, ce l'avevano il baracchino, una volta l'ho convinto alla GBC, come è entrato, gli ha detto il prezzo, io a casa, ha detto non ne ho soldi da buttare, e diciamo effettivamente sono entrato dal 2004, la proprio dico com'è coso, come civile, le altre volte facevo un po' di ascolto con un piccolo portatilino e cosa, però non andavo da nessuna parte. La volta che ho collegato, poi piano piano ho messo antenne, ho cambiato apparati e piano piano sono cresciuto. Un attimo la bassa. Eia, chiediamo se c'è qualche di un altro su 10 che vuole entrare, magari che non vuole solo ascoltare. Avanti, chi vuole entrare? Siamo andati bene, era fammentante, però i canali non è che erano molti, erano più di tre canali. Io quando avevo preso il primo mio apparato aveva quattro canali. Vabbè, io ho sentito dire la moglie di uno, poi conoscevi, salutami tua moglie, salutami tuo figlio, salutami tuo cugino, c'era molto familiare, a parte poi c'erano dei problemi diciamo di bisticci, quelli non mancavano, però c'erano molte persone che qualcuno ho sentito si è anche conosciuto, si sono fidanzati e qualcuno si è anche sposato dopo essersi conosciuto in radio, me lo confermi Vito? Sì, assolutamente. No, vabbè, certo, però c'era questo senso di incontro al fine di creare un'amicizia, magari non badarsi alla spesa, il benzina andare al ghiero e trovare il tipo e si incontrava, cioè capite, c'era questo, sto parlando degli anni 70, si trovava per qualche cosa, però gli algerini erano un pochettino, a mio avviso, un po' restia a questa amicizia. L'algerese rimane un po' mi dispiace di usare queste cose perché non ce lo dovrebbero dire, però rimane un po' più freddino. Un po' diffidente, sicuramente magari la cultura loro, la mentalità. Va bene, prima c'è da dire c'era anche un po' più familiarità perché non esistevano i telefonini, non c'era internet, per cui era una bella compagnia, la gente alzava la radio, accendeva la radio proprio per sentirsi le chiacchierate, facendo le chiacchierate. Adesso ormai è scomparso tutto da quando è entrata la telefonia mobile e soprattutto internet. Molta gente se n'è andata via per quel motivo, c'è tanta gente che ha ancora gli apparati conservati, poi quando c'è stato il periodo del Covid 2 anni fa, qualche cosa si è risvegliata, qualcuno ha riattaccato, eccetera, eccetera. Sì, è successo proprio quello. Col Covid sono rientrati alcuni, no, il pianto c'era, perciò anche nell'apparato era una cazzata. Il problema è su questo Covid, tu ne hai accennato il Covid, sai che è veramente grave la situazione, perché stanno aumentando, io ho fatto già la terza dose, vabbè, non entriamo in quell'argomento, se no ci sono ore e ore di discussioni. Forse è diventato Tonino, avanti Tonino, ho sentito una portantina sotto, qualcuno forse che voleva entrare. E quindi così, vabbè, certo, c'è da parlare molto, c'è da conoscere molto delle persone che non hanno voluto fare, e quindi bisogna vedere che si sta facendo. Certo, perché tu vai a comprare un farmaco, adesso non è che vogliamo proseguire il discorso, vai a comprare un farmaco, una sperina, sei giusto. chiedo, avanti che vuole entrare. Sono tornato io. Sono a dire che mi hanno detto una cosa, la sua pasta. Vito, lei è Marino, ha conosciuto l'anno? Marino? Sì, io. Ma di Alghero? No, Sassari. Marino, Marino, non me lo sto ricordando. Bianco, per me un secondino. Un amico. Stai parlando con qualcuno? Allora, Marino se lo potrebbe la metà, la però c'è se metà ottava. No, se non è il periodo, perché forse, secondo sono sempre assente, forse abbiamo parlato per pochissimo tempo, perché io questo Marino l'ho sentito da un certo mese, un amico che era di Banacco, e non so se tu sai qualcosa. Che mi hanno comunicato di Dio, ce l'ho conosciuto, ce l'ho sentito tutto qua. Ma no, io sono entrato nel 74, come già detto, in 80. Allora ho modulato con Renato, Cesso, Rosetta, c'era Italo Ancora, Piccolo Lai, Urania, Pezzo, Rubicito, Ostro, Cenerce, Mario Mao, Pezzo, Gio Maria, sì. Luce Mattino, cioè, la chiamava la luce del casino. Ok. Non mi dà di prendere se Roberto si è sentato un attimino. Già, perché adesso mi hai accennato i prezzi dove Mario Umano, ma dove mai purtroppo deceduto una decina di anni fa circa. No, già mi sto ricordando di quelli, però questo mattino no, probabilmente io, siccome mi sono sposato nel 55, è molto probabilmente è quel periodo che poi ho, mi sono accertato, magari loro hanno votato per 3-4 anni e io lì avevo cessato in quel momento, l'ho ripreso nell'81, capito? Ecco. No, io più vedi belli, c'è più le sempre per come Torino San Nicola. E poi ho cambiato più là, Torino Famosacchi, e sono rimasto sempre Torino Famosacchi. Ecco, allora chiamo il conto di Torino Famosacchi, caspita, perché no? Io ho sempre come attivo, perché piaceva un sacco la moto Famosacchi, quindi poi la benzina me la sono comprata. E ne ho avuto tre, ne ho avuto. Poi basta, l'ultima l'ho venduta 4-5 anni fa perché era troppo pericolosa, cambiava troppo, basta. Gli anni perché ero, soffrivo anche il disco, poi mi sono operato e insomma adesso sono finito. Però la moto basta, mi sono divertito anche troppo, però è troppo pericoloso, è un proiettile. Meglio così, mi sembra che c'è qualcuno sotto, avanti. Sono rientrato e c'era qualcuno che stava cercando di entrare, avanti che vuole entrare. Quando stava parlando Tonino dava un paio di colpi importanti, ma c'è qualcuno che non riesce a uscire, avanti di nuovo, se no riprendi tu Vito, nulla, vai Vittorio. Ah sì, no, vabbè, ho sentito più della portantina lì, no, e non ho voluto entrare, neanche il mio ripiano, e quindi non c'è voglia, forse la radio sta facendo male la mia, mi sembra, cosa dici? No, no, ti ascolto sempre perfettamente, niente da dire. Ok, cosa volevo dire? Di altri apparati c'hai base tu che utilizzi? No, ho anche uno, un samurai degli anni, vecchissimo, funziona bene, lo posso attaccare, lo posso provare se vuoi. No, no, parlo di base, ho sempre veicolari, c'hai tu. Veicolari, veicolari, no, avevo questo, il 440 che appunto, dicevo, l'avevo prestato. Avevo anche una stufetta, come dici tu, e l'ho dovuta dare via. Scusa Vito, ma il samurai è quello con 3 centimetri davanti il comando? Roger. Grazie, te l'ho avuto io pure, tempo fa. E non l'ho più ritrovato, ma lo vedi? Ma cavolo, non mi piace dare, io ho venduto, ho dato via il un lineare, il 2002, per una cassata che mi stavo per tagliare le gambe. Ma guarda, io non sono il tipo che tiro il prezzo, tu dici prezzo che io vengo te lo trovo per la mano. No, lo so, ci penserò. È bello, sono sequentine, già tutte per mande. Beh, l'ho avuto anch'io, quindi ripeto, la conosco abbastanza bene. Non mi ricordo che fine ha fatto, ma non me ne posso dire. Io ero innamorato di quel baracchino. Infatti cerchiamo anche su internet, niente, non lo fanno non piace moltissimo, ma comunque se ci ripensi, sappi che a me piace e lo vorrei. Voi, vedi tu. Sentire là. Che poi mi aveva voluto dire dove sei per la prima prova. No, aspetta, adesso faccio, aggancio la, non ce l'ho le cose, ce l'ho dietro di per girare, non devo agganciare l'antenna e lo aggancio, aspetta. Sì, allora Samurai è quello argentato che c'ha frequenzimetro, se non sbaglio. Scappa, frequenzimetro destra. Sì, non l'ho mai visto dal vero, però l'ho visto su molte riviste e cose del genere. Era un apparato completo, e spinge anche parecchio, mi sembra, più di 5 watt da quello. Più o meno come il Galaxy. E diciamo che un prodotto è una cosa uguale, però in miniatura più piccolo. E poi Pluto, là. Bravo. Però è cromato tutto a nero. Eia. Il Pluto l'avevo dato a Luca e lui mi aveva dato il Royce. Se ce l'ha ancora quel Pluto, almeno credo che ce l'abbia ancora, ma era una bomba quella radio. E qua nei CB di tutti i baracchini parliamo veicolari è quello che usciva meglio di tutti. No, io ripeto, se mi terremo lo vende subito, guarda. Anche adesso Andrea povero. Ma c'è problema. Vedi, voglio rifare le stazioni non ci vede, capisco. Ecco, i baracchini diciamo che piacciono. A me il Caporello conosco tutto bene, l'ho avuto. E niente, vediamo che Vittorio ci dipinge. Eccomi. È un passaggio lungo, Vittorio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ehi, radio pompa qua. Bella radio, chiara, pulita. Questo è il Samurai con microfono ZGA1B+5. Alla grande, perfetta, pulita la radio. Dimmi dove ci sto venendo. Lui sta venendo qua. Sento già bene dove sono. No, lui. È il proprio comunale del trombo del ratto. Sì, è il proprio comunale sono. E ci ho uscito poco fa, infatti. Ma Vito, tu un periodo hai modulato da dove avevi l'officina, c'è l'officina nel negozio? Sì, io ho modulato, da lì c'avevo l'antenna sopra il negozio. E mi ricordo, sino a quanto tempo fa hai modulato? No, tanto tempo fa, 30 anni fa, sono venuto via lì nell'82. No, la sto confondendo io, come non detto, pensavo più recente. Nell'82 sono andato via, ho smontato l'antenna, questa che c'era già 15 anni montata, e l'ho piazzata qui. Adesso si è talmente ossidata e ci sono due ranelli in meno e sta andando avanti. Cazzo, quindi c'ha 30 anni, più di 30 anni con l'antenna. 35 anni c'ha. E cosa vuoi di più, cacchio? Magari avere antenne che durassero così tanto. Vabbè, però se io metto un'antenna nuova qua, ma nuova di zecca, lo sai come spara? È un fulmine. Ma come stazione oraria, ti stai accordando o pulito stai uscendo? Sto uscendo, guarda, sono 8 watt. Adesso accordo un altro pochettino, basta, 8 watt. E senza accordo a quanto ce l'ha le stazioni oraria? Senza accordatore ne ho 4. Come a 4? E allora è pericoloso. Ah, non 1 e 4, 4. E allora brucia tutto. Cacchio, allora quindi non sta rendendo con l'antenna, cioè tu è come che c'ha un pezzo di ferro. Certo, è tutta sgangherata. Gli mancano due radiali, è tutta ossidata. Una volta l'ho smontata e mi ha aiutato Natalino qua, l'abbiamo smontata e non siamo riusciti a sbloccare le telescopi, è tutto ossidato. Quei telescopici prima di metterli io consiglio sempre mettere grasso di vaselina ma proprio a buttatura dentro, sigillarlo con l'altro isolante e poi vulcanizzante, così quando le devi svoltare riesci a togliere, se no non c'è niente da fare, a cannello le devi togliere. E allora surriscaldarla eccetera, il cannello c'è. Vittorio, non bruciamo i finali. Cos'è Vittorio? Vittorio, non bruciamo il finale. Bruciare il finale? Non bruciarmi il finale con la sera che c'è sotto in aria. Ah cacchio, se lo devo dare a te non lo vuoi con i finali bruciati. Tony. No. Non fa. Ma devo dire che il finale non ne ho mai bruciato da quando ho avuto parati, Questo è chiaro. Comunque Vittorio, io non sto scherzando. Io ripeto, se me lo vuoi dare, mi dici prezzo.